la gente. Ascoltiamo i pensieri di chi non pensa a niente, sfiorandogli il cuore con brividi e suoni. Wow, wow, wow. E a un tratto le immagini di forme e colori. Spieghiamo le ali che l'aria ci trasporterà. Spiegatele adesso che siete angeli in libertà. Non c'è da pensare a quel che c'è giusto da far, far, fare. Se c'è un'onda nell'aria, dai, la devi cavalcare, la devi cavalcare. Siamo soltanto chi ti può cullare sul lenzuola di nuvole. Siamo soltanto chi gioca coi colori. Siamo soltanto chi si fa cullare dalle note come onde del mare. Siamo soltanto chi accende la luce per farti risvegliare.